24, i gialli della storia. Erano le 21.45, con me c'era il maresciallo della polizia come scorta e l'autista e uno dei segretari. Entrammo come ogni sera nel garage con la macchina che era blindata. Io attraverso una porticina raggiungevo le scale e salivo a casa mia. Il carbone aveva questa abitudine: quando entravamo faceva lasciare la serranda aperta e andava fuori a vedere se tutto era normale. All'improvviso sentiamo degli spari. Scesi dalla macchina, c'era un rivolo di sangue che mi ricordo sul fronte, ero stato colpito col calcio della pistola. Dopodiché mi trovai trasportato a braccia su un camioncino coperto. 27 aprile dell'81 a Torre del Greco le Brigate Rosse rapiscono il democristiano Ciro Cirillo, assessore all'urbanistica della regione Campania. Nell'agguato resta ferito il suo segretario e perdono la vita l'autista e un poliziotto della scorta. Ma quello che sembra un ennesimo sequestro degli anni di piombo sarà invece il primo atto di un caso politico e giudiziario. Un caso che vedrà coinvolti uomini dei servizi segreti, alti funzionari dello Stato, camorristi e vertici della DC. Oggi a Mix 24 racconteremo questa storia e i suoi retroscena, con la testimonianza dei figli di Cirillo, del giudice Alemi, che era il titolare dell'inchiesta, del pubblico ministero Libero Mancuso. Ma chi era Cirillo? Ciro Cirillo, classe 1921, impiegato alla Camera di Commercio, subito dopo la guerra si iscrive alla Democrazia Cristiana di Torre del Greco, che porta in pochi anni alla maggioranza assoluta in Consiglio Comunale. Prima Gronchiano, poi Doroteo, negli anni 60 Cirillo ricopre a lungo la carica di segretario provinciale del partito. Nel 68 è presidente della provincia, mentre si lega sempre di più all'astro nascente dello scudo crociato in Campania, Antonio Gava. Cirillo è il suo uomo di fiducia. Onnipresente e discreto al tempo stesso, abile mediatore, ottimo tecnico della pubblica amministrazione, indispensabile per tradurre in realtà ogni promessa elettorale. Negli anni 70 il granitico Cirillo approda alla regione Campania. Dopo 5 anni da assessore all'urbanistica, nel 1980 arriva la nomina più prestigiosa, presidente della regione. Poi, nel 1981, nella campagna devastata del dopo terremoto, di fronte a danni incalcolabili e a decine di migliaia di senza tetto, Cirillo torna all'urbanistica con la delega per la ricostruzione. Le BR lo hanno scelto quindi come un simbolo. Il suo sequestro è solo l'inizio di una serie di azioni dimostrative. Presto ci saranno altri sequestri, gambizzazioni e omicidi. Lo annunciano gli stessi brigatisti nel loro primo comunicato. Contro la ristrutturazione del mercato del lavoro, lavorare tutti, lavorare meno. Contro la deportazione dei proletari, requisire le case sfitte dei padroni. Qui alla mostra d'oltremare c'era un accampamento di roulotte. E nelle roulotte c'erano famiglie, c'erano uomini, donne, bambini. Quasi, non dico in totale abbandono, no, ma come un problema forte che non aveva avuto ancora le risposte che doveva avere. La città intanto è in stato d'assedio. Ad Ercolano viene ritrovato il furgone usato dai sequestratori. Nello spazio, credo, di una decina di minuti arrivammo al posto dove poi fui rinchiuso in questo sgabuzzino di legno. La prigione di Cirillo è a Cercola, a pochi chilometri dalla sua abitazione. Ma la copertura escogitata dai sequestratori è perfetta. L'appartamento che era adibito ad ambulatorio, perché la moglie di uno dei miei sequestratori era un medico che girava intorno a questo gabbiotto. Io me ne accorgevo dai tacchi, dal rumore dei tacchi, che c'era comunque una donna. Intanto lo Stato annuncia la linea dura, come era stato fatto nel caso Moro. non ci sarà nessuna trattativa. Ma in quella primavera le BR non danno tregua. Dopo Cirillo viene rapito Renzo Sandrucci, dirigente dell'Alfa Romeo, Roberto Peci, fratello di Patrizio, il primo pentito della lotta armata, e l'ingegnere della Monte Edison, Giuseppe Tagliercio. Un'offensiva guidata dal nuovo leader delle Brigate Rosse, Giovanni Senzani. 40 anni, criminologo, ex consulente del Ministero di Grazia e Giustizia, Giovanni Senzani è attivo nel partito armato fin dal 1976. Già in contatto con il comitato esecutivo delle BR durante il sequestro Moro, nel marzo 1979 viene arrestato e subito rilasciato per insufficienza di prove. Da quel momento entra in clandestinità e scala rapidamente l'organigramma brigatista. Nel 1980 Senzani è tra le menti del sequestro del giudice Giovanni D'Urso, che Mario Moretti definirà il capolavoro delle BR. Nello stesso anno assume la direzione del fronte carceri e fonda la colonna napoletana delle Brigate Rosse. La nuova struttura entra in azione il 19 maggio con l'omicidio dell'assessore democristiano Pino Amato. Teorico dell'alleanza tra partito armato e sottoproletariato marginale, dopo l'arresto di Moretti avvenuto il 4 aprile 1981, Senzani è uno degli ultimi capi brigatisti a piede libero. Senzani vuole guadagnare consenso nelle migliaia di disoccupati e senza tetto del dopo terremoto in Campania. Ma a Napoli a dettare legge c'è un'altra organizzazione, la Camorra. Il suo capo indiscusso è Raffaele Cutolo, che in quel momento è detenuto ad Ascoli Piceno, ma questo non gli impedisce di mantenere un controllo capillare sul territorio. Ed è a lui che solo 24 ore dopo il rapimento si rivolgono i servizi segreti, ma il tentativo dei servizi, almeno per il momento, fallisce. Cutolo non sembra disposto alla collaborazione. Intanto le BR continuano la loro offensiva e si fanno vive con parecchi comunicati e diffondono le riprese del processo popolare che hanno istituito contro Cirillo. È lo stratega del partito regime di C nel polo metropolitano napoletano, è l'ideatore e il sostenitore del progetto di ristrutturazione e ricostruzione imperialista, è l'amministratore eccellente che ricuce le mille trame antiproletarie, è il responsabile a livello più alto della criminale strategia della deportazione dei proletari. Io non ho sostenuto la deportazione dei terremotati. Abbiamo sempre detto che non bisognava far allontanare dalla comunità quelli che avevano avuto le case distrutte, anche se non è che avevo io i poteri per emettere. Quanto dici non corrisponde al vero, perché tu, in quanto assessore all'urbanistica e alle politiche del territorio, in quanto presidente di fatto e guida politica del Comitato Tecnico Scientifico per la ricostruzione, sei stato uno dei massimi sostenitori del progetto di ricostruzione che tendeva alla deportazione dei proletari. Martedì 12 maggio 1981, comunicato numero 5. Senzani ha deciso di alzare la posta in gioco. Contro la deportazione del proletariato, scrive il capo brigatista, la requisizione è l'unica soluzione possibile. Giovedì 14 maggio 1981, le Brigate Rosse diffondono un messaggio tra gli sfollati della Rulottopoli della Mostra d'Oltremare. Terremotati, sono Ciro Cirillo. Sono rinchiuso nella prigione del popolo come prigioniero di guerra delle Brigate Rosse. Sto pagando 30 anni di attività antiproletaria. Ho capito che la ricostruzione non può essere basata sulla deportazione. Pochi giorni dopo, il capogruppo democristiano al comune di Napoli, Roberto Pepe, chiede la requisizione di 900 case sfitte. Ai giornalisti dichiara: questo non significa trattare con le BR. Lo Stato e le forze dell'ordine sono sotto scacco, ma a Senzani non basta. Le BR tornano a sparare. Venerdì 15 maggio, Napoli, Viale Colle Aminei. Le Brigate Rosse sequestrano il consigliere comunale democristiano Rosario Giovine. Da sempre al fianco dei lavoratori, Giovine viene gambizzato perché, spiegano i brigatisti, è una spia del regime infiltrato nel movimento dei disoccupati. Sabato 6 giugno, Baia, provincia di Napoli. Tre uomini armati e a volto scoperto prelevano Uberto Sciola, assessore comunale all'edilizia, comunista, davanti alla sua abitazione. Senzani lo interroga per quasi un'ora mentre l'auto dei brigatisti attraversa indisturbata il centro della città. Le ricerche di Cirillo, intanto, proseguono. Perlustravano proprio la zona nella quale ero anch'io, e il Lavrea mi disse: guarda, ci sono le madame, e ci sono le madame, ci sono i carabinieri che stanno nella zona, augurati che non trovino questo posto, perché se dovessero trovarle, noi dobbiamo abbandonarle, prima di abbandonarle dobbiamo farti fuori. Poi, dopo i giorni di silenzio a casa Cirillo, arriva una lettera con la quale le BR fanno una nuova richiesta, vogliono la pubblicazione di alcuni documenti riservati. La maggior parte degli organi di stampa è contraria alla pubblicazione, ma a fine giugno si apre uno spiraglio. Lotta continua, acconsente alla pubblicazione. L'interrogatorio di Cirillo, pubblicato da Lotta Continua, ripercorre 3 decenni di potere democristiano a Napoli. Prima il potere era in mano ai Fanfariani, poi passa nelle mani dei Gava. Gava controllava direttamente tutta la penisola sorrentina. Gava intuì subito cosa significava la regione. Essa offriva una possibilità reale di gestione di potere nel napoletano. Quindi anche questa richiesta è stata assolta e tutto fa pensare che si sia vicina alla liberazione. Ma il 9 luglio dell'81 i sequestratori diffondono un terribile messaggio. Campagna Cirillo, comunicato numero 11 delle Brigate Rosse. Il processo a Ciro Cirillo è terminato e la condanna a morte di questo boia è la giusta sentenza in questa società divisa in classi. Ed è, nello stesso tempo, il più alto atto di umanità che le forze rivoluzionarie possono compiere. Intanto i servizi segreti tornano da Cutolo per chiedergli aiuto e questa volta sembra che si possa trovare un accordo. Questi funzionari dei servizi affermarono di andare lì a nome dei vertici della Democrazia Cristiana. Il Cutolo ne chiese conferma e disse: se è così, io voglio che venga qui anche qualcuno di questi signori. Giuliano Granata era il segretario di Cirillo ed era il referente immediato, diciamo così, del partito. Era partita fino in fondo la trattativa con la Camorra come l'unica strada per poter condizionare le Brigate Rosse napoletane. Cutolo naturalmente pretese che a questi incontri intervenissero anche i suoi uomini di fiducia, e in quel momento i suoi uomini di fiducia erano Enzo Casillo e Corrado Iacolani. Erano tutti e due latitanti, però con la copertura dei servizi non correvano nessun rischio di circolare, di girare tranquillamente per tutta l'Italia. Cutolo innanzitutto disse: io per instaurare un rapporto con i brigatisti detenuti ho bisogno di qualche mio uomo che venga prima, parli con me e che poi vada in qualche carcere dove ci sono i detenuti politici. I due uomini di Cutolo, con un lasciapassare fornito dai servizi, vanno a Palmi, dove sono detenuti i capi storici delle BR. Ma riescono a parlarci? Davvero si apre là una trattativa per Cirillo? E Senzani ascolta quello che gli arriva dalle carceri? Quello che è certo è che quei giorni viene posta una nuova, decisiva condizione per la liberazione di Cirillo, un riscatto. Dopo una lunga mediazione tra la famiglia di Cirillo tramite Enrico Zambelli, un giornalista vicino alla famiglia di Cirillo, e Giovanni Senzani, si arriva a un accordo. La cifra è 1.450.000.000 di lire. Naturalmente la trattativa si è svolta all'insaputa degli inquirenti e la consegna del denaro deve essere effettuata senza destare sospetti. Siamo scesi di casa, abbiamo preso il denaro, l'abbiamo messo in macchina e poi con il nostro autista, noi distesi per terra, siamo usciti dal garage per raggiungere dell'Europa, dove tra poco arriveremo. Avevamo necessità di tenere assolutamente all'oscuro il magistrato di questa trattativa e del pagamento di un riscatto. Inizia l'odissea di Zambelli, il quale piglia in consegna questo borsone bianco richiesto espressamente da Senzani, perché questo serviva a rendere Zambelli più facilmente individuabile. Come abbiamo la macchina scoperta, si porta un cappello, perché c'è molto sole, un cappello con il sole. E questo cappellino bianco inizia il suo percorso. Incominciarono a farlo girare per la tangenziale, se ricordo bene, per farlo approdare poi in un bar a Piazza Medaglie d'Oro. Va al bar e fa colazione. Va bene. E poi seguirà l'istruzione. Dalla zona Flegrea lo dirottarono alla stazione dove lui dovette lasciare l'automobile e pigliare un treno per Roma. Anche a Roma continuano i contatti che portano a Zambelli in vari luoghi della città e a incrociare parecchie persone che gli danno nuove indicazioni. Poi alla fine Zambelli incontra Senzani, il denaro consegnato, l'accordo perfezionato. Pronto? Zambelli? Sì. Senta, le telefono da parte del dottor Petrini. Bene. Le abbiamo lasciato il pacco. Sì. Il patriarca ve l'abbiamo lasciato stamattina, potete trovarlo alle case popolari di Stasera. Sì. Di fronte al cinema Lona, andando verso, da Poggio Reale verso Casoria. Sì. Nel lagico del grattacielo, di fronte al grattacielo con che calde. Sì. Va bene, vi bastano queste indicazioni? Sì, vi basta. Adesso avvisiamo anche la stampa. Va bene. Buongiorno. Grazie. La mattina del 24 luglio dell'81 Cirillo è libero, ma il giallo è solo all'inizio. Chi ha messo i soldi del riscatto? E i servizi segreti, per conto di chi si sono mossi? Poi, dopo la liberazione, si verifica un episodio molto strano. Avevamo dato disposizioni che, in caso di liberazione di Cirillo, che oramai erano un paio di giorni che si preannunciava, dovessero portare Cirillo in ospedale se era in condizioni malferme, oppure direttamente alla Digos, nei locali della Digos, perché lo interrogassi. Quella mattina, all'alba, in uno di questi fabbricati di case popolari. E una pattuglia della polizia stradale intervenne, così fu ritrovato Ciro Cirillo. Chiamarono immediatamente il loro comandante, il quale disse: portatelo in questura, io vi raggiungo lì. E così ci avviammo verso la sede del comando della polizia stradale. Mentre stavano procedendo per andare in questura, furono raggiunti da quattro macchine della squadra volante con un funzionario di polizia che era nipote di un senatore democristiano. Mi venne incontro, che io conoscevo bene, e questo funzionario di polizia pretese la consegna di Cirillo. Tentammo di interrogare l'onorevole Cirillo, non ci riuscimmo poiché simulava una incoscienza che, per accertare la quale, chiamammo un medico. Dopo che sentimmo il medico che visitò l'onorevole Cirillo, andammo via. Nel discendere le scale e rientrare, risalire sull'auto, io ricordo con precisione di avere incrociato Gava e Piccoli insieme. Che cosa si siano detti Gava, Piccoli e Cirillo non si è mai saputo. E tutti i protagonisti negano che si siano scambiati notizie fondamentali. Ma intanto le BR, in un ultimo comunicato, denunciano pubblicamente l'estorsione e la cifra del riscatto, provocando molte polemiche, soprattutto all'interno della Democrazia Cristiana. Il quotidiano L'Unità, il 18 marzo dell'82, pubblica la notizia presa da un rapporto del Ministero dell'Interno in cui si dice che mentre Cirillo era nelle mani delle BR, il democristiano Vincenzo Scotti avrebbe incontrato più volte Cutolo. Ma il rapporto risulta essere un falso, portando alle dimissioni la giornalista che aveva scritto l'articolo sull'Unità e il medesimo direttore dell'Unità, Claudio Petruccioli. Il 23 marzo dell'82 il ministro dell'Interno Rognoni ammette il pagamento di un riscatto per la liberazione di Cirillo, ma nega il coinvolgimento delle istituzioni. Ma intanto le indagini della magistratura continuano ed alcuni arrestati della colonna napoletana delle BR si apprende che qualcuno ha aiutato la famiglia Cirillo a raccogliere il denaro. Interrogato da Alemi, uno dei carcerieri di Cirillo, Giovanni Planzio, dichiara: Cirillo indicò in modo preciso ai familiari chi fossero le persone a cui avrebbero dovuto rivolgersi per reperire i soldi del riscatto. Antonio Chiocchi, che ha condotto la maggior parte degli interrogatori con Cirillo, aggiunge inoltre: per raccogliere la somma concordata, lui individuò delle persone, degli amici del partito, con cui aveva già avuto degli affari in passato e che avevano già ricevuto favori. Secondo il giudice Alemi, la somma raccolta per Cirillo sarebbe di molto superiore al 1.450.000.000 chiesti dalle Brigate Rosse. E il denaro in più sarebbe servito a ricompensare Cutolo. Ad affermarlo è un pentito della banda della Magliana, Claudio Sicilia, cugino del cutoliano Corrado Iacolare. Tutta l'operazione, inoltre, avrebbe avuto una regia politica. Sempre secondo Alemi, in cambio del denaro versato alle BR e a Cutolo, i vertici della DC avrebbero promesso ai costruttori gli appalti del dopoterremoto. Napoli, giovedì 28 luglio 1988. Il giudice Alemi deposita la sua istruttoria, un durissimo atto d'accusa che infiamma il dibattito politico. L'opposizione chiede immediatamente le dimissioni di Gava, nel frattempo divenuto ministro degli interni nel governo De Mita. De Mita, in aula, respinge la richiesta di dimissione e attacca con fermezza il giudice Alemi. Ma intanto la ricerca della verità si sposta dal Parlamento al Tribunale. E in aula Cutolo conferma i contatti sia con i servizi che con le Brigate Rosse. Nella sua sentenza del 14 luglio 1993, la Corte d'Appello del Tribunale di Napoli scrive: sono ricollegabili alla grande famiglia della Democrazia Cristiana le trattative attuate con le Brigate Rosse attraverso la camorra di Raffaele Cutolo. Come non si sia seguita la linea della fermezza, è emerso per l'ingresso nella vicenda di Antonio Gava e Flaminio Piccoli. Così è fallita la linea della fermezza adottata per Moro. Quindi la DC ha trattato con le Brigate Rosse e con la Camorra per la liberazione di Cirillo. Dopo anni, Antonio Gava ha fatto una dichiarazione esclusiva sul suo ruolo in quella trattativa, a cominciare dall'accusa più infamante, quella di aver scambiato la libertà di Cirillo con gli appalti del dopo terremoto. Non ne parliamo, appalti per tutto il Sud. Nessuna credibilità, nessuna conseguenza. Non c'è uno condannato. Quando arrivò la richiesta che me la dissero i figli, perché arrivò attraverso Cirillo, io dissi, ma non ci credo, perché le Brigate Rosse mica vogliono. Perché passarono per dei volgari cercatori di denaro, non per degli ideologi. Però poi questi trattarono, discusso. E a questo punto io dissi, vabbè, allora vedetevela voi, fate quello che possiamo fare, lo facciamo, però io, il partito come tale, non vuole avere alcuna ingerenza in questo. Si è detto che i suoi collaboratori si siano occupati di in qualche modo di coordinare la raccolta del denaro. Gli ho spiegato, io ho detto, io non mi estraniai, però certo gli altri hanno si sono adoperati. Quando i servizi segreti, prima il SISD e poi il SISMI, sono andati ad Ascoli, secondo lei potevano farlo senza un mandato politico? Certamente, se no quei servizi segreti sono... Un problema politico ce l'avevate però in quel momento, lei e Piccoli, ci furono smentite, lei smentì tutto. Certamente, la smentita perché... Non era un impegno preciso che si era assunto con quelli che avevano contribuito. Nessuno voleva che si sapesse che lui ha cacciato denaro da dare alle Brigate Rosse. Che reato abbiamo commesso? Abbiamo tentato di salvare una vita umana. È un reato. Quella trattativa segna con tutta probabilità la fine del Partito della Fermezza, che si era manifestato con tutta la sua forza in occasione del rapimento Moro. Una volta liberato, per evitare congetture e speculazioni, Cirillo viene invitato a dimettersi dai suoi compagni del partito e abbandonare la vita politica. Io conservo la minuta che mi mandarono e che io dovetti copiare, e sulla copia di queste dimissioni ci sono, si vedono, sono visibilmente le mie lacrime, perché era un addio a tutta una vita.